Okay. Combattiamo da soli contro questo cazzo di mondo. Il guardiano delle colline, Neko e Zorba. Nella lotta contro il male, sento il fragore del campo. So che il prezzo da pagare sarà il prezzo del trionfo. L'erba è diventata porpora, sangue scorre per sfamare la lotta. Odio e ira repressi in fondo all'anima. Mantengo la mia mente lucida, affondo e strago la spada dal re della tenebra. Vittoria, gloria che è sopravvissuto, onore che è caduto, ma nella desolata landa delle tenebre sono ormai sperduto nella notte dell'agonia. In preda alla pazzia vago verso la linea di confine. Preservo l'argento della mia anima irascibile. Seduto aspetto il corso degli eventi, silenzio perfetto alla luce dei defunti. Ma se il sole splenderà ancora su questi b-boy, voglio che sia la luce eterna che illumina la valle degli eroi. Affilo lentamente la mia spada, guardo la pietra scivolare sul filo della lama, apto al combattimento sulla strada. Ultima preghiera prima dello scontro, fa che io non cada. So che corpi di amici nemici tappezzeranno la landa. Guardo lo stemma sulla mia bandiera, voglio che sia questo che si espanda. Voglio che la luce degli occhi dei miei compari risplenda. Medico la mente prima che dissangui, prima che una lacrima scenda. Non vi sono regole nello spregevole duello con le tenebre. Alto lo sguardo di chi ha trionfato, il resto è cenere.